Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 192 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di matematica, ma soprattutto di Power Networks. Cari ascoltatori, mettetevi comodi, prendete un bel foglio, una bella matita e possibilmente anche una gomma per cancellare, perché questa settimana ci occuperemo di matematica. Ce ne occuperemo come piace occuparcene a noi, ce ne occuperemo quindi dal punto di vista applicativo e ce ne occuperemo parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive, un preprint, sapete quanto ci piacciono i preprint, insieme al dottor Fabio Pasqualetti, studente di dottorato presso l'Università di Santa Barbara in California. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. Fabio, con te parleremo appunto di questo paper uscito su Archive, si intitola Cyber Physical Attacks in Power Networks, Model Fundamental Limitation e Monitor Design. In questo paper si analizzano nel dettaglio le Power Networks e in particolar modo si cerca di capire quali sono i difetti che hanno intrinsecamente le Power Networks, ma all'inizio lascio a te le 100 parole iniziali per cominciare la trasmissione e introdurre l'argomento della settimana. A te la parola. L'infrastruttura elettrica è senz'altro una delle infrastrutture più importanti su cui si basa lo sviluppo della società futura, che ci è servito appunto anche per migliorare quello che è stato la società passata. Tuttavia questa infrastruttura, che è una delle più grandi opere ingegneristiche degli ultimi 50 anni, sta sicuramente operando ai limiti delle proprie capacità, proprio perché era stata progettata inizialmente per sopportare certi carichi e questi carichi si sono certo aumentati nel tempo. A causa di queste limitazioni, l'infrastruttura elettrica sta presentando dei limiti che si manifestano ad esempio in alcuni blackout che sono avvenuti negli ultimi anni, oppure un problema ancora più attuale è quello di attacchi esterni che entità terroristiche o comunque agenti maliziosi possono lanciare contro l'infrastruttura per appunto distruggerla. In questo studio noi andiamo a trovare un modello matematico della rete elettrica, modellizziamo quelli che possono essere i possibili fault o i possibili attacchi che si possono lanciare a questa rete, identifichiamo quelli che sono gli effetti e troviamo degli algoritmi per poi detettare e identificare questi attacchi per poi eliminarli e prevenire effetti catastrofici sulla rete stessa. Fabio, ti ringrazio per la sintesi. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire espressamente che cosa sono le Power Networks, giusto per introdurre un pochino l'argomento e cercare di capire quali sono gli argomenti al contorno, ma soprattutto gli argomenti principali, mentre nella seconda parte della trasmissione entreremo più nel dettaglio di questo paper e cercheremo di capire quali sono le analisi che avete fatto tu e il tuo gruppo di lavoro. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. All right, let's work it out, 'cause there's nothing to discover. Every Little Piece dei Farmetan. Questo è il primo pezzo musicale che abbiamo scelto nella 192esima puntata di Cacciafotone e quindi do il benvenuto a tutti voi all'interno di questo podcast scientifico che vi accompagna oramai da 6 anni. All'interno di questa puntata siamo in compagnia col dottor Fabio Pasqualetti, studente di dottorato presso l'Università di Santa Barbara in California, col quale stiamo parlando delle cosiddette power networks, delle reti elettriche. Stiamo parlando fondamentalmente di un paper pubblicato su Archive intitolato Cyber Physical Attacks in Power Networks Model Fundamental Limitation and Monitor Design, e all'interno di questo paper si cerca di analizzare appunto le reti elettriche, ma soprattutto si cerca di analizzare se le reti elettriche hanno dei difetti intrinseci che vanno risolti, soprattutto si analizzano le cosiddette vulnerabilità. Fabio, nel fuori onda tu mi dicevi che oramai sei in California da qualche annetto. Come ci sei finito lì nella lontana America, in California? Sì, io stavo facendo la tesi di laurea magistrale in ingegneria a Pisa quando il mio professore mi ha proposto di venire qua per terminare la tesi qua nell'Università di Santa Barbara, e quindi ho colto l'occasione. Quindi inizialmente sono venuto qua per 9 mesi in cui ho terminato la tesi magistrale, e durante questo tempo ho conosciuto un professore qua a Santa Barbara che poi mi ha proposto di tornare per fare lo studio di dottorato. E il dottorato qua, a differenza di quanto avviene in Italia, dura almeno 4 anni, diciamo, e per questo sono qua da almeno 4 anni, esatto. Tu su che cosa ti sei laureato, su che cosa hai fatto la tesi? La tesi dottorato ancora la devo fare, la mia tesi magistrale era appunto su sistemi multiagente, ovvero reti in cui ogni nodo è un agente autonomo e questi agenti interagiscono, e l'interazione di questa gente può essere maliziosa. Da qui anche si collega il lavoro attuale di cui stiamo per parlare. E niente, quello che avevo fatto in quell'ambito è quello di trovare delle condizioni matematiche attraverso i quali questi agenti potevano influenzare la rete senza poi essere detettati e trovati da quelli benevoli nella rete stessa. Fabio, cominciamo davvero con la trasmissione, cerchiamo di spiegare esattamente che cosa sono le power networks. È un po' come guardarle dall'alto come una città. Ci sono tante lucine e le luci più grosse sono i cosiddetti nodi. Dai nodi si dirama fondamentalmente l'energia. Noi non ce ne accorgiamo, ma siamo pieni fondamentalmente di power networks. Esatto. Un power network, ovvero una rete elettrica, nasce dall'interconnessione di generatori, bus e carichi. Ovviamente i generatori sono le entità che producono energia, i bus sono le entità che trasmettono questa energia, mentre i carichi sono gli utilizzatori, siamo noi stessi che preleviamo energia dalla rete per vari scopi, ad esempio il più banale, accendere la televisione oppure il forno elettrico o qualunque altra cosa. Le chiamano reti perché appunto nascono dall'interconnessione di questi elementi, e questi elementi si possono semplicemente modellare come dei nodi di un grafo che sono collegati appunto attraverso i bus, e quindi esiste una topologia di interconnessione della rete stessa che permette la trasmissione di energia tra i generatori e poi i carichi. Ovviamente, data la natura distribuita della rete stessa, è difficile monitorare ogni nodo nella rete. E questo perché per farlo bisognerebbe misurare e quindi monitorare ogni singola componente, ma essendo la rete molto grande, questo diventa difficile. Quello che in generale si fa invece è prelevare alcune misure dalla rete e poi cercare di inferire un qualcosa sullo stato globale della rete stessa, ovvero prendere delle misure locali, questo è il problema, per inferire delle condizioni globali della rete, delle condizioni di funzionamento. Nel fare questo ovviamente serve un modello matematico della rete stessa, perché come facciamo da misure locali a poi a poter dire qualcosa di globale, ovvero se misuriamo un qualcosa vicino a noi, come facciamo a sapere se un nodo molto lontano dall'altra parte della rete questo sta funzionando correttamente o meno? E quindi diciamo che il problema di trovare un modello matematico del sistema che viene analizzato, in questo caso la rete elettrica, è il problema propedeutico per poi poter risolvere anche problemi di fall detection oppure di attack detection, come ci focalizziamo in questo caso in questo paper. Fabio, con te volevo fare un parallelo con una puntata precedente di Caccia Fotone, per la precisione la numero 181, quella che avevamo chiamato Smart Non Troppo Grid. Ecco, in quella puntata intervistavamo la professoressa Anna Scaglione e con lei parlavamo delle smart grid e in particolar modo delle power line communication. Ne usciva fondamentalmente che le power line communication, che erano nate per distribuire i dati, in qualche modo erano, come dire, inadatte per distribuire energia. Anche se effettivamente non vi siete occupati di smart grid in questo lavoro, pensi che le power networks debbano essere riviste nel loro complesso, come fondamentalmente da quella intervista era uscito che dovevano essere riviste le power line communication? Diciamo, il tema smart grid è molto legato al tema che sto analizzando io. Questo perché si parla di smart grid come una power network che nel futuro sarà più efficiente, più sicura e quindi anche capace di rilevare fault e attacchi esterni. Tuttavia non ho analizzato il canale di trasmissione, io ho analizzato più l'aspetto fisico e quindi gli effetti fisici e cyber e informatici che un attacco può avere sulla rete, però non dal punto di vista delle trasmissioni informatiche, quindi non so della qualità delle linee per trasmettere sia dati che energia. Fabio, le anomalie del sistema, cioè quali sono i punti, come dire, deboli del power network? Diciamo che una prima vulnerabilità consiste nel fatto che la rete sta operando ai suoi limiti massimi, ovvero lavora sempre al massimo, i generatori stanno lavorando per sopperire energia alla rete stessa, però questa è al più quello che si può fare. Quindi se i carichi aumentano, comunque i carichi sono variabili in maniera molto veloce, può darsi che i generatori perdano sincronismo e quindi si ha il fenomeno di transient instability, dove appunto la rete collassa perché non è più capace di fornire energia ai carichi stessi. E questo, diciamo, è un limite intrinseco fisico della rete che necessita un design migliore per venir meno, per superare questo ostacolo. L'altro punto di vulnerabilità della rete dipende dal fatto che i control centers, che sono i controllori della rete, coloro che la operano e coloro che la gestiscono, sono spesso collegati ad internet e si sa bene che essendo collegati a internet esistono delle vulnerabilità virus, come sono conosciuti comunemente, che possono passare attraverso la rete e poi andare ad influenzare i generatori e le altre componenti del sistema. E questo, ad esempio, è quanto avviene nel famoso worm Stuxnet, che ha attaccato le centrali nucleari in Iran pochi mesi fa, pochi anni fa tra l'altro. E niente, quindi sicuramente c'è sia un aspetto fisico che un aspetto cyber, ovvero bisogna andare a vedere sia le vulnerabilità dell'impianto fisico stesso che le vulnerabilità dovute alla interconnessione di questo impianto fisico con la rete internet, la rete cyber che tutti usiamo. Si ripresenta insomma il solito problema che un sistema complesso ha infinite variabili, come dire, presentano infiniti problemi. Esatto, è molto difficile capire quali sono tutti i punti in cui la rete può essere attaccata. Senti, da quando hai cominciato a studiarle, quindi da diciamo 4 anni fa fino ad ora, come sono cambiate le power network? Sono rimaste sempre uguali o è cambiato solo il modo di studiarle? Beh, diciamo che l'interesse è sicuramente cresciuto durante l'ultimo anno. Durante l'ultimo anno c'è stato un boom e una richiesta di migliorare le conoscenze sulle power network stesse. Quindi diciamo che l'impianto fisico è più o meno rimasto lo stesso da quando è stato costruito. Tuttavia sono nate esigenze nuove, ad esempio quella di integrare le fonti rinnovabili, che sono sì dei generatori, però di diversa natura, ovvero li chiamano generatori stocastici, perché ovviamente non riescono, se pensiamo ad esempio a un impianto solare, non riescono a fornire un'elettricità che è costante nel tempo, perché ovviamente questo dipende dalle condizioni atmosferiche. E quindi è nato il bisogno di integrare nella rete tradizionale fonti che siano stocastiche e variabili nel tempo. Inoltre si sta parlando molto di queste auto elettriche. Auto elettriche, il problema è che se queste auto elettriche diventano molto popolari e tutti cominciano a usare auto elettriche, allora arriverà un momento in cui la rete dovrà sopportare dei carichi che sono molto più alti, perché ogni persona con un'auto elettrica al ritorno dal lavoro dovrà appunto caricare la batteria dell'auto, e quindi si avrà un picco della richiesta elettrica appunto a una certa ora del giorno per ogni giorno. E quindi si sta pensando che l'infrastruttura tradizionale, infrastruttura corrente, potrebbe non essere sufficiente per sopperire a questo bisogno, e quindi c'è un forte studio, un forte interesse su come poter migliorare sia la struttura, l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto elettrico della rete stessa. Quindi in dettaglio, dal punto di vista fisico, non credo siano ancora cambiate molto. Tuttavia c'è un approfondimento teorico, uno studio teorico molto, molto forte, che sicuramente porterà a degli sviluppi nei prossimi anni. Fabio, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio analizzeremo nel dettaglio il contenuto del vostro paper. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Drowning the Ghost. Questo è il secondo pezzo musicale che abbiamo scelto all'interno di questa puntata di Cacciafotone, nella quale abbiamo ospite il dottor Fabio Pasqualetti, studente di dottorato presso l'Università Santa Barbara di California. Ecco, col dottor Pasqualetti stiamo parlando di un paper, di un preprint pubblicato qualche giorno fa su Archive, intitolato Cyber Physical Attacks in Power Networks, Model Fundamental Limitation and Monitor Design, e all'interno di questo paper si analizzano le vulnerabilità del sistema elettrico, appunto delle Power Networks. Fabio, ti volevo chiedere subito una cosa all'inizio della seconda parte della trasmissione. Questo è un preprint, dove l'avete sottomesso? Questo paper è stato sottomesso alla conferenza CDC Conference on Decision and Control, che si terrà in Orlando, Florida, il prossimo dicembre, il 20 dicembre credo. E niente, adesso abbiamo sottomesso l'articolo per revisioni, ci arriveranno i commenti da alcuni revisori, ovviamente anonimi, e noi dovremo, se il paper verrà accettato, incorporare questi commenti e poi presentarlo tramite una presentazione orale di 20 minuti in questa conferenza in Florida tra 6 mesi. Fabio, entriamo a passi piccoli all'interno del vostro lavoro. All'inizio del tuo paper tu scrivi che questo è un miglioramento di un lavoro precedente, di un lavoro che avevi scritto precedentemente. In che cosa l'ha migliorato? Beh, diciamo che innanzitutto nei lavori precedenti consideravamo sistemi dinamici a tempo discreto, mentre adesso andiamo a studiare sistemi dinamici a tempo continuo. La differenza sembra non fondamentale, perché comunque il modello, anziché essere scritto da equazioni alle differenze, viene adesso scritto da equazioni differenziali. Tuttavia bisogna tenere poi conto di alcune limitazioni di sistemi continui che magari in campo discreto non abbiamo. Diciamo che in campo discreto abbiamo più un'intuizione di quello che succede nella rete, perché ci sono questi agenti, si scambiano informazioni a distanti discreti, mentre in tempo continuo abbiamo un'evoluzione appunto continua del sistema. Questo miglioramento, anche se ovviamente non stratosferico, ci permette di studiare sistemi a tempo continuo, appunto come quelli delle power network. Ma diciamo che soprattutto una delle differenze è che nello studio delle power network andiamo ad analizzare sistemi che noi chiamiamo descrittori, ovvero sono sì sistemi lineari a tempo continuo, tuttavia sono sistemi singolari, ovvero il vettore delle derivate viene adesso premoltiplicato da una matrice che, anziché essere di rango pieno, ad esempio l'identità, è di rango non pieno, e quindi non possiamo invertire questa matrice per ritrovare un sistema lineare standard. E diciamo che questa deficienza di rango della matrice che premoltiplica le derivate è dovuta al fatto che nelle power network ci sono delle equazioni algebriche da tenere presente, sono le famose leggi di Kirchhoff per i circuiti elettrici. Riuscireste a spiegare in termini piuttosto semplici che cosa sono queste leggi di Kirchhoff, che forse molti di noi hanno studiato addirittura alle scuole medie? Leggi di Kirchhoff ai nodi dicono semplicemente che la somma delle correnti entranti deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti. Ovviamente non ci devono essere in assenza di perdite sulla rete, che poi noi assumiamo in questo paper. E quindi in particolare quello che abbiamo adesso è che l'equazione di power flow, ovvero la potenza entrante in un nodo, in un bus, deve essere uguale alla potenza uscente, a meno che questa non sia consumata da un carico. E questo genera appunto equazioni algebriche nel sistema stesso. Fabio, nel vostro paper e in un paragrafo in particolare voi descrivete il cosiddetto filtro di Kalman. Ora, anche se effettivamente voi non utilizzate il filtro di Kalman all'interno di questo studio e utilizzate un approccio geometrico, ci vorresti spiegare come funziona il filtro di Kalman e perché viene utilizzato di norma in studi come questo? Diciamo che il filtro di Kalman, in maniera molto generale, è un algoritmo che, dato un sistema lineare affetto dal rumore, quindi guidato dal rumore, questo cerca di ritrovare la stima ottima dello stato date le misurazioni, e diciamo che va a risolvere un problema di stima ottima minimizzando la varianza dell'errore di stima. Il vantaggio del filtro di Kalman è appunto che è un algoritmo iterativo, e quindi anziché collezionare le misure lungo un certo intervallo e poi risolvere il problema di stima ottimo, questo lo fa in maniera online, ovvero andando ad integrare nuove misurazioni ad ogni passo e migliorando la stima dello stato ad ogni passo. E si riesce a dimostrare che sotto alcune assunzioni sul rumore, ovviamente sul sistema, questo filtro fornisce la stima ottima dello stato. In verità però quello che facciamo noi qua nel paper è un attimo diverso, ovvero anziché usare un approccio a filtro di Kalman utilizziamo dei filtri che sono sviluppati usando un approccio geometrico alla teoria dei sistemi, ovvero andiamo a studiare quelle che sono le caratteristiche inerenti del sistema, i famosi sottospazi condizionati, che erano stati tra l'altro introdotti e proposti da un professore italiano negli anni 70, un professore di Bologna, per capire come questi fault poi vanno effettivamente ad influenzare, in quali sottospazi del sistema vanno a influenzare. Quindi c'è tra l'altro un parallelismo molto bello tra la fisica del sistema e quelle che poi sono proprietà matematiche, puramente matematiche, geometriche, delle matrici legate e associate al sistema stesso. Quindi, diciamo, riassumendo, nel vostro lavoro non analizzate il sistema dal punto di vista complessivo, ma analizzate pezzo pezzo, blocco blocco. Diciamo che ogni singola componente può essere modellata con delle equazioni che sono diverse. Ad esempio, se abbiamo dei generatori, questo vengono modellati con equazioni dinamiche continue del secondo ordine, ad esempio. Ovviamente è un modello semplificato, però comunque riconosciuto piuttosto accurato come modello. Per quanto riguarda i bus, invece, non abbiamo qua equazioni dinamiche, però abbiamo equazioni statiche, come dicevo prima, queste famose equazioni algebriche che descrivono il bilancio dei flussi di potenza all'interno dei carichi. Per quanto riguarda i carichi stessi, invece, avremo due opzioni: potremo modellare questi come sistemi dinamici o modellare questi come delle impedenze, quindi come modelli statici. E noi scegliamo la seconda, li modelliamo come modelli statici. E diciamo che il modello che poi troviamo infine è un modello piuttosto classico e riconosciuto nella letteratura di Power Network, perché in effetti quello che facciamo noi, non vogliamo migliorare i modelli che sono già stati proposti per le Power Network, ma vogliamo capire come algoritmi di controllo, come ad esempio il filtro di Kalman o questi filtri geometrici per fault detection, possono essere utili nello studio delle Power Network stesse. E fino adesso questa interazione tra materiale, algoritmi di controllo dei sistemi e Power Network sembra essere mancata, o comunque sembra necessitare un approfondimento. Allora, scenario simulato: io sono un attacker e tu sei un defender. A me dove conviene attaccare e a te dove conviene difendere? Esatto, questa è un'ottima domanda, e in effetti noi abbiamo dato una risposta a questo problema in termini matematici, ovviamente. Diciamo che per sistemi dinamici esiste questo concetto delle zero dinamiche. Le zero dinamiche sono delle dinamiche del sistema, ovvero delle traiettorie, dei movimenti del sistema che non sono visibili in uscita. Quindi ovviamente un attacker, quello che vuol fare è modificare l'andamento del sistema senza essere notato, senza essere visto. Questo è quello che vuol fare. Quindi, se noi supponiamo che di avere delle misure sulla rete, di prendere delle misurazioni, quello che vorrà fare l'attacker è appunto quello di modificare la rete, magari distruggerla, senza essere visto dalle misurazioni. Da un punto di vista matematico, questo corrisponde ad eccitare, ad inserire dei segnali, degli ingressi nella rete, in modo da eccitare le zero dinamiche del sistema stesso. Quindi quello che noi facciamo è prendere una rete elettrica, modellarla con un modello matematico a equazioni differenziali e algebriche, studiare le zero dinamiche di questo sistema, e poi diciamo: beh, adesso se un attacker va ad eccitare quelle zero dinamiche, sicuramente rimarrà non detettato dai nostri monitor. Quindi quello che possiamo fare noi è migliorare il monitor, ovvero aumentare le misurazioni nella rete per eliminare la presenza di queste zero dinamiche. Fabio, allora vado con l'ultima domanda prima di andare con la classica domanda zainetto. In che cosa questo metodo migliora i precedenti e a che cosa hai attinto dai precedenti metodi? Beh, diciamo che un primo miglioramento molto grande è appunto quello di considerare modelli dinamici di Power Network. Quello che viene fatto usualmente è invece quello di considerare modelli statici, in cui le equazioni differenziali dei generatori non vengono prese in considerazione. Facendo così, ovviamente si perde un sacco di informazioni della rete, e gli attacker hanno molte più possibilità di modificare l'andamento della rete senza essere notati. E in particolare noi andiamo a trovare limitazioni fondamentali per procedure che sono statiche e procedure che sono dinamiche. Facciamo vedere che se viene utilizzata una procedura dinamica, allora la resistenza della rete ad attacchi esterni migliora fortemente. Quindi diciamo che un primo contributo del paper è appunto quello di dimostrare rigorosamente perché utilizzare modelli dinamici può portare a miglioramenti della capacità della rete di resistere ad attacchi esterni. Un secondo miglioramento è appunto quello di fare il design di alcuni filtri, quindi di alcuni algoritmi, per andare a detettare quelli che sono gli attacchi sulla rete stessa. Ovviamente questi filtri hanno delle limitazioni, e sono le limitazioni fondamentali delle zero dinamiche. Quelle non possono essere superate a meno che non si aumentino le misurazioni sulla rete stessa. Il nostro obiettivo finale è appunto quello di proporre un nuovo design della rete, ovvero una nuova infrastruttura, una nuova rete, un nuovo tipo di connessione che elimina la presenza di queste zero dinamiche. Infatti in un altro paper che abbiamo, che stiamo scrivendo adesso, quello che andiamo a studiare è appunto dove mettere i sensori e come progettare la rete in modo che non ci siano vulnerabilità per un attacker esterno. Musica e poi di nuovo in studio. Grande Giove. E siamo nella coda finale di Calcio Fotone, siamo sempre in compagnia col dottor Pasqualetti, studente di dottorato presso l'Università di Santa Barbara in California. Con lui abbiamo parlato di Power Networks e l'ultima domanda è la classica domanda Zainetto. Fabio, quale delle tante cose di questo lavoro, di questo studio, salveresti e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portartela con te nelle prossime ricerche? Sicuramente il design di questi filtri. È molto importante capire quali sono le limitazioni, però alla fine quello che conta è saper fare le cose, e sicuramente questi filtri danno la possibilità di migliorare le capacità della rete attuale. Quindi sicuramente questi filtri vanno tenuti, e sperando che se il modello effettivamente che abbiamo usato è un modello che si affermerà, un modello che sarà reale e riconosciuto, allora questi filtri sicuramente giocheranno un ruolo importante. Fabio, allora ti ringrazio per la pazienza con cui hai risposto alle nostre domande. L'appuntamento per tutti voi è alla settimana prossima con la puntata numero 193, e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Fabio, grazie ancora. Arrivederci, grazie a voi. E con chi stai parlando? Dici a me?